Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Stepan Arkadyč spalancò i suoi occhi chiari e scintillanti. «Perché non puoi venire? Che cosa vuoi dire?» disse perplesso in francese. «No, ormai è promesso e noi tutti contiamo su di te. Voglio dire che non posso venire da voi perché i rapporti di parentela che c'erano fra noi devono cessare». «Come? Come sarebbe a dire? Perché?» proferì Stepan Arkadyč con un sorriso. «Perché comincio una causa di divorzio contro vostra sorella, mia moglie. Dovevo...» Ma Alexei Alexandrovich non era ancora riuscito a finire il suo discorso che già Stepan Arkadyč aveva agito in modo completamente diverso da quello che lui si aspettava. Stepan Arkadyč mandò un gemito e si sedette in una poltrona. «No! Alexei Alexandrovich, che cosa dici?» gridò e sul suo viso si dipinse la sofferenza. «È così. Scusami, io non posso e non posso crederci!» Alexei Alexandrovich si sedette, sentendo che le sue parole non avevano avuto l'effetto che lui si aspettava e che gli sarebbe stato necessario spiegarsi e che, qualunque fossero le sue spiegazioni, i suoi rapporti con il cognato sarebbero rimasti gli stessi. «Sì, sono stato messo nella penosa necessità di esigere il divorzio», disse. «Io dico una cosa sola, Alexei Alexandrovich. Io ti conosco come un uomo eccellente, giusto. Conosco Anna, scusami, non posso cambiare opinione su di lei, come una bravissima, ottima donna, e perciò, scusami, non posso credere a questo. Qui c'è un equivoco», disse. «Sì, se fosse solamente un equivoco». «Permetti, io capisco», lo interruppe Stepan Arkadyč, «ma si intende, una cosa sola, non bisogna avere fretta, non bisogna avere fretta». «Io non ho avuto fretta», disse freddamente Alexei Alexandrovich, «ma in una faccenda simile non ci si può consigliare con nessuno. Ho fermamente deciso». «Oh, questo è orribile», disse Stepan Arkadyč dopo un pesante sospiro. «Io farei una cosa sola, Alexei Alexandrovich. Ti supplico, falla. La causa non è ancora cominciata, da quel che ho capito. Prima di cominciare la causa, vediti con mia moglie, parla con lei. Lei vuole bene ad Anna come ad una sorella, vuole bene a te ed è una donna sorprendente. Per amor di Dio, parla con lei, dammi questa prova d'amicizia, te ne supplico». Alexei Alexandrovich rimase pensieroso. Stepan Arkadyč lo guardava intanto con simpatia senza interrompere il suo silenzio. «Andrai da lei?» «Ma non so, è per questo che non sono venuto da voi. Suppongo che i nostri rapporti debbano cambiare». «E perché poi? E non vedo». «Permettimi di pensare che, oltre ai nostri rapporti di parentela, tu hai avuto per me, almeno in parte, quei sentimenti d'amicizia che io ho sempre avuto per te, e stima sincera», disse Stepan Arkadyč stringendogli la mano. «Anche se le tue peggiori supposizioni fossero giuste, io non mi arrischio e non mi arrischierei mai a giudicare l'una o l'altra parte. Non vedo la ragione per cui i nostri rapporti debbano cambiare. Ma adesso fai questo, vai da mia moglie». «Già. Noi consideriamo in modo diverso la cosa», disse freddamente Alexei Alexandrovich. «Del resto, non parliamone». «No, perché non dovresti venire? Almeno oggi a pranzo. Mia moglie ti aspetta. Ti prego, vieni e soprattutto parla con lei. Lei è una donna sorprendente. Per amor di Dio, ti supplico in ginocchio». «Se lo volete tanto, verrò», disse Alexei Alexandrovich dopo aver sospirato. Stepan Arkadyč guardò l'orologio. «Oh, mamma mia, sono già le 5 e devo andare ancora da Dolgovushin. Allora, per piacere, vieni a pranzo. Non ti puoi immaginare che dolore sarebbe per me e mia moglie». Alexei Alexandrovich accompagnò il cognato in tutt'altro modo da come l'aveva accolto. «Ho promesso e verrò», rispose melanconicamente. «Credilo, apprezzo, e spero che non ti pentirai», rispose sorridendo Stepan Arkadyč. E mettendosi il paltò mentre camminava, urtò con il braccio la testa del domestico. Scoppiò a ridere e uscì. «Alle 5 e in finanziera, per favore!» gridò ancora una volta ritornando verso la porta. Thank you. Erano le 5 passate e alcuni invitati erano già arrivati. Stavano entrando nell'ingresso discorrendo del tempo quando Stepan Arkadic li raggiunse. In salotto già sedevano il principe Alexander Dmitrievich, suocero di Oblonsky, il giovane Scerbaki, Turovicin, Kitty e Karenin. Stepan Arkadic vide subito che senza di lui in salotto andava male. Daria Alexandrovna, in abito di gala di seta grigia, era palesemente preoccupata. E dai bambini che dovevano pranzare da soli in camera loro, e dal fatto che il marito ancora non ci fosse e che senza di lui la compagnia non si fosse amalgamata come doveva. Kitty guardava verso la porta, raccogliendo le forze per non arrossire quando fosse entrato Konstantin Levin. Il giovane Scerbaki, che non era stato presentato a Karenin, cercava di far vedere che questo non lo imbarazzava affatto. Karenin, secondo l'uso di Pietroburgo, a quel pranzo con signore era in frac e cravatta bianca. Dalla sua faccia Stepan Arkadic comprese che era venuto solamente per mantenere la parola data e che, partecipando a quella compagnia, compiva un penoso dovere. Ed era lui il principale colpevole della freddezza che aveva gelato tutti gli invitati sino all'arrivo di Stepan Arkadic. Entrando in salotto, Stepan Arkadic si scusò. Spiegò che era stato trattenuto da quel principe che era l'eterno capro espiatorio di tutti i suoi ritardi e le sue assenze. In un momento fece far conoscenza a tutti e, mettendo insieme Alexei Alexandrovich e Sergei Kosnishev, gli lanciò il tema della russificazione della Polonia, al quale subito loro si aggrapparono insieme con Peskov. Poi si diresse nuovamente verso il salotto. In sala da pranzo incontrò Konstantin Levin. «Non ho fatto tardi». «Com'è possibile che tu non faccia tardi?» disse Stepan Arkadic prendendolo sotto braccio. «Hai molta gente. Chi? E poi chi?» domandò Levin arrossendo senza volerlo, mentre faceva cadere la neve dal berretto con il guanto. «A tutti dei nostri! Kitty è qui. Andiamo, ti farò fare conoscenza con Karenin!» Nonostante la sua spregiudicatezza, Stepan Arkadic sapeva che conoscere Karenin era una cosa lusinghiera per chiunque e perciò aveva inteso offrire questo suo ospite importante ai suoi migliori amici. Ma in quel momento Konstantin Levin non era in condizione di apprezzare come meritava quella conoscenza. Non vedeva Kitty da quella serata per lui immemorabile alla quale aveva incontrato Vronsky, eccezion fatta per quell'istante in cui l'aveva scorta sulla strada maestra. Nel fondo della sua anima sapeva che quel giorno l'avrebbe vista lì, ma per tenere libero il proprio pensiero si era sforzato di persuadersi che non lo sapeva. Ora però, quando udì che lei era lì, sentì ad un tratto una tale gioia e insieme una tale paura che gli mancò il fiato e non riuscì a dire ciò che voleva. Come sarà? Com'era prima o com'era nella carrozza? Cosa succederà se Daria Alexandrovna ha detto la verità? E perché poi non potrebbe essere vero, pensava. «Ah, per favore, presentami a Karenin», proferì con sforzo e con un passo disperatamente deciso entrò nel salotto e la vide. Lei non era come un tempo, né come nella carrozza, era tutta un'altra. Era spaventata, timida, vergognosa e per questo ancor più incantevole. Lo vide nello stesso momento in cui egli entrò nella stanza. Lo aspettava. Si rallegrò e si confuse a tal punto per la propria gioia che vi fu un momento, proprio mentre lui si avvicinava alla padrona di casa e gettava di nuovo uno sguardo verso di lei, che sia a lei, sia a lui, sia a Dolly, che vedeva tutto, parve che lei non avrebbe resistito e si sarebbe messa a piangere. Arrossì, impallidì, arrossì di nuovo e restò sospesa, tremando appena con le labbra, aspettandolo. Lui le si avvicinò, si inchinò e porse la mano in silenzio. Se non fosse stato il leggero tremito delle labbra e l'umido che le velava gli occhi e ne aumentava lo splendore, il suo sorriso sarebbe stato quasi calmo quando disse «Da quanto tempo non ci vediamo?» e con disperata risolutezza, con la propria mano fredda, strinse la mano di lui. Thank you. tutti prendevano parte alla generale conversazione, eccetto Kitty e Levin. In principio, quando si era parlato dell'influenza che un popolo ha sull'altro, Levin aveva pensato, senza volerlo, che sull'argomento avrebbe voluto dire qualcosa. Ma questi pensieri, prima per lui molto importanti, guizzavano come in un sogno nella sua testa e non avevano adesso per lui il minimo interesse. Gli pareva persino strano che quelli si accanissero tanto a parlare di cose che non servivano a nessuno. Dapprima Levin, rispondendo a Kitty che gli chiedeva dove l'avesse veduta l'anno prima, raccontò il suo incontro con la carrozza lungo la strada maestra mentre stava ritornando a piedi dalla falciatura. «Era di mattina, molto presto. Voi probabilmente vi eravate appena svegliata. La vostra mamma dormiva nel suo angolo. Era una mattina stupenda. Io camminavo e pensavo, chi ci sarà in quella carrozza col tiro a quattro? E per un attimo siete balenata voi, e dal finestrino ho visto che eravate seduta così, e con tutte e due le mani tenevate i nastri della cuffietta, ed eravate terribilmente intenta a pensare qualcosa», disse egli sorridendo. «Come avrei desiderato sapere a che cosa pensavate allora, a qualcosa di importante?» «Non ero spettinata», pensò lei, ma vedendo il sorriso pieno d'entusiasmo che questi particolari suscitavano nel ricordo di lui, sentì che, al contrario, l'impressione che aveva prodotto era molto bella. Arrossì e scoppiò a ridere con gioia. Per essere trattata in presenza delle signore, la conversazione sui diritti delle donne presentava dei punti scabrosi, come ad esempio quello dell'ineguaglianza fra i due sessi nel matrimonio. Quando però si alzarono da tavola e le signore uscirono, Peskov, senza seguirle, si rivolse ad Alexei Alexandrovich e si mise ad esporre la ragione principale dell'ineguaglianza. L'ineguaglianza dei coniugi, secondo la sua opinione, stava nel fatto che l'infedeltà della moglie e l'infedeltà del marito vengono punite in modo ineguale dalla legge e dall'opinione pubblica. Stepan Arkadyevich si affrettò ad avvicinarsi ad Alexei Alexandrovich offrendogli da fumare. «No, non fumo», rispose tranquillamente Alexei Alexandrovich, e come volendo mostrare di proposito che non aveva paura di quella conversazione, si rivolse con un gelido sorriso a Peskov. «Suppongo che le basi di questo modo di vedere stiano nell'essenza stessa delle cose», disse, e avrebbe voluto passare in salotto. Ma a questo punto, improvvisamente, Turovicin si mise a parlare rivolgendosi ad Alexei Alexandrovich. «Ma voi avete sentito di Priachnikov?» disse egli, dal lungo tempo in attesa dell'occasione per rompere il silenzio che gli pesava e reso vivace dallo champagne bevuto. «Mi hanno raccontato proprio oggi che si è battuto in duello a Tver con Visky e l'ha ucciso». Come sembra che la lingua batta sempre dove duole il dente, così oggi Stepan Arkadyevich sentiva che sventuratamente quel giorno la conversazione cadeva ogni momento sul punto dolente di Alexei Alexandrovich. Avrebbe voluto di nuovo portar via il cognato, ma lo stesso Alexei Alexandrovich domandò con curiosità: «Per che cosa si è battuto Priachnikov?» «Per la moglie. Ha agito da coraggioso, l'ha sfidato e l'ha ucciso». «Ah», disse con indifferenza Alexei Alexandrovich e, sollevate le sopracciglia, passò in salotto. «Come sono contenta che siate venuto», gli disse Dolly con un sorriso spaventato, incontrandolo nel salotto di passaggio. «Devo parlare un po' con voi, sediamoci». Alexei Alexandrovich, con l'inalterata espressione di indifferenza che gli conferivano le sopracciglia sollevate, si sedette accanto a Daria Alexandrovna e sorrise ipocritamente. «Tanto più che volevo anch'io chiedere il vostro permesso e congedarmi subito. Domani devo partire». Daria Alexandrovna era fermamente convinta dell'innocenza di Anna e sentiva che stava impallidendo e che le sue labbra tremavano d'ira contro quell'uomo freddo e insensibile che si proponeva così tranquillamente di rovinare la sua innocente amica. «Alexei Alexandrovich», disse con disperata decisione guardandolo negli occhi, «vi ho domandato di Anna e non mi avete risposto. Come va?» «A quanto pare sta bene, Daria Alexandrovna», rispose Alexei Alexandrovich senza guardarla. «Alexei Alexandrovich, perdonatemi, non ho il diritto, ma io amo e stimo Anna come una sorella. Vi prego, vi supplico di dirmelo. Che cosa c'è fra voi? Di che cosa l'accusate?» Alexei Alexandrovich si accigliò e, quasi chiudendo gli occhi, chinò la testa. «Suppongo che vostro marito vi abbia riferito le ragioni per cui ritengo necessario cambiare i miei precedenti rapporti con Anna Arkadievna», disse senza guardarla negli occhi. «Io non credo a questo», proferì Dolly cercando di cogliere lo sguardo sfuggente di lui. «Non si può non credere ai fatti, Daria Alexandrovna», disse lui, mettendo l'accento sulla parola «fatti». Difficile sbagliarsi quando è la moglie stessa che dichiara questo al marito. Dichiara che 8 anni di vita è un figlio, che tutto questo è un errore e che lei vuole ricominciare a vivere da capo, disse con rabbia Alexei Alexandrovich tirando su col naso. Anna e il vizio. Non posso associarli, non posso credere a questo. Daria Alexandrovna, disse lui guardando adesso apertamente nel buon viso sconvolto di Dolly e sentendo che senza volerlo gli si scioglieva la lingua. Io darei molto perché il dubbio fosse ancora possibile. Quando dubitavo stavo male, ma meglio di adesso. Quando dubitavo c'era una speranza. Ma ora non c'è speranza e tuttavia io dubito di tutto. Dubito talmente di tutto che odio mio figlio e certe volte non credo che sia mio figlio. Sono molto infelice. Perdonare non posso, non voglio e non lo ritengo giusto. Per quella donna io ho fatto tutto e lei ha calpestato tutto nel fango che le è consono. Io non sono un uomo cattivo, non ho mai odiato nessuno, ma odio lei con tutte le forze dell'anima e non posso nemmeno perdonarla, perché la odio troppo per tutto il male che mi ha fatto. Proferì con lacrime di rancore nella voce. Amate coloro che vi odiano, mormorò vergognosa Daria Alexandrovna. Alexei Alexandrovich ebbe un ghigno sprezzante. Questo lo sapeva da tempo, ma non era applicabile al suo caso. «Amate coloro che vi odiano, ma amare chi si odia non si può. Scusatemi d'avervi sconvolta, ognuno ha abbastanza dolore suo». E ritornato in possesso di sé, Alexei Alexandrovich salutò tranquillo e andò via. Quando si erano alzati da tavola, Levin avrebbe voluto seguire Kitty in salotto, ma temeva che questo le dispiacesse per l'eccessiva evidenza del suo corteggiamento. Rimase nella cerchia degli uomini prendendo parte alla conversazione generale, ma anche senza vedere Kitty ne sentiva i movimenti, gli sguardi e sapeva il posto dove si trovava nel salotto. Lei era sulla porta con Scerbachi e lo guardava. «Pensavo che andaste al pianoforte», disse lui avvicinandosi. «Ecco che cosa mi manca in campagna, la musica». Scerbachi si allontanò da loro e Kitty, avvicinatasi a un tavolo da gioco aperto, si sedette e, preso in mano il gessetto, si mise a disegnare sul panno verde e nuovo dei cerchi sparsi. «Ah, ho scarabocchiato tutto il tavolo», disse lei, e deposto il gessetto fece un movimento come se volesse alzarsi. «Aspettate», disse sedendosi al tavolo. «Da molto tempo volevo domandarvi una cosa». La guardava dritto negli occhi, affettuosi e spaventati. «Prego, domandate». «Ecco», disse lui, e scrisse delle iniziali. QMARQNPESMOA. Non c'era nessuna probabilità che lei potesse capire quella frase complicata, ma lui la guardò come se la sua vita dipendesse dal fatto se lei avrebbe capito o meno quelle parole. Lei lo guardò seria, poi appoggiò la fronte corrucciata sulla mano e cominciò a leggere. Ogni tanto lo sbirciava, domandandogli con lo sguardo, «È quello che penso?» «Ho capito», disse arrossendo. «Che parola è questa?» disse lui indicando la M con cui era designata la parola «mai». «Questa parola vuol dire mai», disse lei. «Ma non è vero. Lui cancellò rapidamente quel che c'era scritto, le diede il gessetto e si alzò. Lei scrisse A-N-P-R-I-A-M. Ad un tratto lui si fece raggiante. Aveva capito. Significava: allora non potevo rispondere in altro modo. Guardò verso di lei in modo timido, interrogativo. Solo allora? Sì, rispose il sorriso di lei. E ora? Domandò lui. Beh, allora leggete. Dirò quello che desidero, che desidererei tanto. Scrisse le iniziali C, P, D, E, P, Q, C, E, S. Significavano che possiate dimenticare e perdonare quello che è stato. Lui afferrò il gessetto con le dita contratte, tremanti, e spezzatolo, scrisse le iniziali di quel che segue. Non ho niente da dimenticare e da perdonare. Io non ho cessato d'amarvi. Lei lo guardò con un sorriso che si era immobilizzato. Ho capito, disse in un sussurro. Lui si sedette e scrisse una lunga frase. Lei capì tutto e, senza domandargli «è così?», prese il gessetto e rispose subito. Per parecchio tempo lui non riuscì a capire che cosa lei avesse scritto e sovente la scrutava negli occhi. Gli si era annebbiata la mente per la felicità. Non riusciva in nessun modo a sostituire le lettere con le parole che lei intendeva, ma nei suoi incantevoli occhi raggianti di felicità capiva tutto quello che aveva bisogno di sapere e scrisse 3 lettere. Ma non aveva ancora finito di scrivere e lei già leggeva dietro il suo braccio e terminò lei stessa e scrisse la risposta «Sì». Elsa Galbato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoj. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @chiocciolarai.it.